si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Eccoci qua, buongiorno a tutti cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare, siamo insieme fino alle 10, un'occhiata tra poco alle pagine del giornale di oggi, quindi una veloce rassegna stampa che ci accompagnerà fino al giornale radio delle 8 e poi andremo avanti con i nostri ospiti, con i nostri interventi e apriremo anche il numero verde come ogni mattina per chiacchierare con noi. Intanto, se volete interagire con noi fin da subito, in tempo reale potete usare il 349-238-6666 che vale anche su WhatsApp e poi la pagina Facebook di Si può fare, Si può fare trattino Radio 24, l'account su Twitter chiocciola Si può fare 24, il mio personale chiocciola Ale Maurizi. Adesso cominciamo, andiamo sui giornali di oggi, vai! E allora, le nuove nomine alla polizia, ma anche ai servizi segreti da parte del governo, arrivano i primi decreti per i rimborsi dei risparmiatori coinvolti nel scandalo delle quattro banche e altro. Sui giornali di oggi in prima pagina un'intervista al rappresentante per la politica estera Mogherini sulla Stampa, che parla delle nuove mosse in campo europeo per quanto riguarda l'immigrazione. Cominciamo con le nomine, nuovi capi per la polizia, 007, scrive il Corriere. Polizia e servizi segreti, capi solo per 2 anni. Carrai slitta la nomina, così scrive Repubblica. L'identikit degli 007 nominati dal governo, secondo la Stampa. Il Fatto Quotidiano sottolinea la nomina, che adesso vedremo, tra le altre contestata contro il parere, si scrive, del capo del Presidente della Repubblica Mattarella, si è preso anche la finanza, il Premier sfida Mattarella e nomina il discusso generale Toschi alla numero uno della Guardia di Finanza. E poi vediamo all'interno per esempio del Corriere le prime notizie che sono... I nomi intanto, via libera Franco Gabrielli come nuovo capo della polizia, suo successore alla direzione anticrimine Vittorio Rizzi, certamente uno dei poliziotti di maggior valore e un segnale che si è voluto mandare alla base sul ruolo strategico della polizia. Certamente più controversa è stata la designazione del generale Giorgio Toschi al vertice della Guardia di Finanza, ma su questo Renzi ha fatto pesare il proprio giudizio e la propria volontà incurante di chi da più parti gli avesse segnalato che la sua nomina avrebbe potuto provocare malumori interni. Chi è il signor Toschi? Nonostante le resistenze del Quirinale, il capo del governo, scrive il Fatto Quotidiano, tira dritto e promuove al comando delle Fiamme Gialle il numero 2 ed ex capo della Guardia di Finanza nella sua Toscana, molto chiacchierato per via del fratello arrestato. Il generale del Corpo d'Armata Giorgio Toschi è stato nominato comandante generale della Guardia di Finanza, leggiamo all'interno del Fatto Quotidiano, subentra Severio Capolupo in scadenza il prossimo 25 maggio. Così, nonostante le riserve più volte espresse al Colle, ribadite ancora giovedì sera a cena da Sergio Mattarella a Renzi, il Premier è riuscito a imporre la sua scelta. Nato a Chieti nel 54, Toschi ha laureato in giurisprudenza, ha ricoperto numerosi incarichi di vertice nelle Fiamme Gialle, tra cui quello di comandante della regione toscana fino a luglio del 2010, periodo in cui è diventato molto noto a Firenze, legatissimo al generale Adinolfi, di cui è stato prima numero 2 e al quale a dicembre è subentrato come comandante in seconda quando è andato in pensione. Toschi ha guidato anche il comando dei reparti speciali della Guardia di Finanza, bla bla bla, eccetera eccetera. Il fratello, è questo il punto, sollevato dal Fatto Quotidiano, il fratello Andrea Toschi fu arrestato nel 2014 per appropriazione indebita di denaro. E questo è il primo puntino sulle i, diciamo, di queste nomine. Per quanto riguarda invece gli altri nomi, vediamo invece su Repubblica che tipo di ritratto si fa di queste nomine. Allora, intanto, sempre a proposito di Gabrielli, chi è Gabrielli? Classe 1900, il nuovo capo della polizia, insomma, un ruolo di tutto rispetto. Classe 1960, Viareggino, quindi toscano anche lui. Di nascita, Gabrielli è uno di quelli che voleva fare il poliziotto fin da ragazzino, cosa che gli è riuscita appena uscito dall'università, quando ha vinto il primo concorso disponibile dei toscani della costa. A tutto, pregio e difetti, soprattutto una corrosiva sincerità, come sanno bene i romani, quando nella complicata estate del 2015 lo ascoltano da prefetto mettere al suo posto il sindaco Ignazio Marino in vacanza ai Caraibi, ricorderete tutti benissimo, mentre la città contemplava i funerali definiti poi hollywoodiani dei Casa Monica nella capitale. In quell'occasione, mentre appunto il sindaco Ignazio Marino era legittimamente in vacanza, non poteva prevederlo, ma ci rimase anche dopo che scoppiò questa bufera che girò su tutte le pagine dei giornali, sulle prime pagine dei giornali del mondo. Marino rimase in vacanza e per Gabrielli, in una conferenza stampa che resterà abbastanza nella memoria, disse sorridendo: Marino, lo sento tra un'immersione e l'altra, apriti cielo. Fu una sorta di condanna a morte per Marino, che infatti di lì a poco, per altre ragioni, scusate, devo tossire, fu costretto a dimettersi per altre ragioni, appunto. Ma insomma, lo scandalo dei funerali di Casa Monica fu una delle gocce che fece traboccare il vaso. Gabrielli non fa mistero, visto la sua incapacità di dire di mentire, diciamo, la sua corrosiva sincerità, toscana sincerità che gli viene riconosciuta, non fa mistero della sua cultura cattolico-democratica, della sua amicizia con Letta. È Prodi che nel dicembre 2006, a 46 anni solamente, lo nomina direttore del SISDE, oggi l'AISI, l'Agenzia per i Servizi Interni. Ma non è che Gabrielli non piaccia molto neanche al centrodestra, perché è vero che all'inizio il governo Berlusconi lo tiene un po' in panchina, lo mette come prefetto a disposizione, ma poi nel 2009 lo nomina prefetto all'Aquila, città appena colpita dal terremoto, poi lo mette a fianco a Guido Bertolaso alla Protezione Civile, come vice di Guido Bertolaso, nel momento in cui la Protezione Civile affonda nello scandalo, nell'inchiesta sui grandi eventi, e poi diventa capo della missione per il raddrizzamento, qua siamo alla storia recente, della Concordia e del trasferimento del relitto della costa, della nave Costa Concordia, dall'isola del Giglio a Genova, è storia recente, la ricordiamo tutti, ha convinto così il governo Renzi che se è sopravvissuto a quello può diventare prefetto di Roma nel momento peggiore, da prefetto di Roma poi capo della polizia. Allora, questo è il ritratto di Franco Gabrielli. Le altre nomine sono, le avete sentite, Walter Girardelli, 60 anni, capo di gabinetto alla difesa, Mario Parente invece 58 anni, già vice dell'AISI ed ex capo dei ROS, nuovo capo appunto dell'Agenzia per la Sicurezza Interna. Andiamo su un altro argomento, che è l'intervista sulla stampa di oggi al rappresentante per la politica estera europea Federica Mogherini, che parla di un altro tema caldo di questo periodo, che è quello dei migranti. Chi non vuole i migranti pagherà, cambiano le regole sull'accoglienza dei rifugiati in Europa. Attenzione, cambiano. È una proposta che mercoledì la Commissione farà agli Stati membri per riformare una mini riforma dell'accordo di Dublino, nuove quote di ripartizioni e multe a chi si rifiuta di accogliere i profughi. Come funziona questo nuovo meccanismo che, a quanto apprendiamo, viene messo a punto dalla Commissione europea? Un ennesimo tentativo di coinvolgere gli Stati membri in forme di responsabilità sulla questione dell'arrivo dei migranti profughi e non solo, ma anche migranti economici che arrivano soprattutto, lo sappiamo, sulle coste dell'Italia, della Turchia, ma questo interessa fino a un certo punto è fuori dall'Europa, e della Grecia soprattutto, facendo poi pressioni alle frontiere dei paesi del sud, ma via via su tutto il resto dell'Europa. Mercoledì la Commissione europea proporrà agli Stati membri la riformina del regolamento di Dublino con una formula che mantiene la responsabilità dell'accoglienza per lo Stato di primo approdo, nel nostro caso l'Italia. E però bilancia questa responsabilità di accoglienza del primo Stato, cioè noi, con un meccanismo di redistribuzione per tutti, fra tutti i paesi per i casi di flussi ampi e sproporzionati, virgolettato. Che vuol dire? Vuol dire che se il piano poi verrà adottato naturalmente dai 28 paesi membri, quindi aspettiamo che questo accada, parliamo di un meccanismo sulla carta studiato dalla Commissione europea, l'Italia resterà titolare dell'onere di registrazione e identificazione di chi arriva sul nostro territorio, sino a quando? Sino a quando i flussi superano il 150% della quantità ritenuta compatibile con il paese. Mettiamo che questa quantità sia 100 immigrati, quando siamo a 150 abbiamo il diritto di chiedere aiuto all'Europa. E che cosa succede? In questo caso scatta la condivisione dell'onere con i partner comunitari, che sono tenuti a prendersi la loro quota eccedente di migranti. Questi stati però potranno chiamarsi fuori e quindi dire no, cara Italia, non mi interessa, tieniteli tu i tuoi profughi, però in quel caso dovranno staccare un assegno per ogni profugo rifiutato. E naturalmente su queste soglie e su quello che dovranno pagare gli stati per ogni profugo che rifiuteranno si giocherà, come capite bene, la trattativa a partire da mercoledì prossimo, quando gli stati cominceranno a discutere di questa proposta della Commissione. L'intervista di Federica Mogherini poi affronta sempre questa questione anche sul lato del Brennero, della polemica tra l'Italia e l'Austria. Senza una politica europea, dice la Mogherini sulla Stampa oggi, condivisa sull'immigrazione, anche un paese come l'Austria, che è stato generoso nell'accoglienza dei rifugiati in passato, finisce per evocare la reintroduzione dei controlli. È una illusione pensare di gestire il fenomeno a livello nazionale. Oltretutto l'idea di innalzare barriere fisiche all'interno dell'Unione Europea è inaccettabile, sproporzionata e contraria allo spirito dei trattati. Reintrodurre controlli alle frontiere deve essere un fatto eccezionale e temporaneo, lo ha ribadito anche la Commissione. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un attimo. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. Stiamo dando un'occhiata ai giornali di oggi, una velocissima rassegna stampa che ci accompagna fino al GR delle 8. Dal Sole 24 Ore di oggi, banche al via gli indennizi, recupero crediti più rapido. Succede che c'è il via libera del governo al decreto che punta a sanare le posizioni di chi? Dei 10.000 obbligazionisti subordinati di Carichieti, Cari Ferrara, Banca Marche ed Etruria, oltre che ad accelerare l'iter per il recupero dei crediti, indennizzi automatici all'80% per circa metà dei risparmiatori coinvolti, quelli con redditi sotto i 35.000 euro, e ricorso all'arbitrato per gli altri. Tutto quello che c'è da sapere lo trovate sul Sole 24 Ore di oggi. Una posizione critica è quella di Libero, che scrive: il governo sbanca i truffati. Banda larga è il sottotitolo. Dal Consiglio dei Ministri che doveva occuparsi di internet escono un'infornata di nomine, quella della polizia di cui abbiamo appena parlato, e il decreto che rimborsa parzialmente solo metà dei risparmiatori delle quattro banche fallite. Ma c'è una buona notizia sui giornali di oggi, ce l'abbiamo, vai! The good news! Ah, sorpresa, in prima pagina di Repubblica, la grande bellezza di Pompei, così ha cancellato il degrado. La terza vita di Pompei alle sembianze della Villa Imperiale, una lussuosa dimora con vista sul Golfo di Napoli, che apre per la prima volta al pubblico grazie ai fondi del grande progetto Pompei, così come riapre l'antiquarium chiuso dal terremoto dell'Irpinia di 36 anni fa. E la rinascita di Pompei all'antiquarium, che voluto nel 1870 all'inventore della Pompei moderna Giuseppe Fiorelli, ora ospita il nuovo Bookshop, il plastico ricostruttivo della città prima dell'eruzione del 79 d.C. e un percorso con video che introduce alla visita. Sono solo le ultime novità per quanto riguarda Pompei, perché a marzo avevano riaperto altre 5 domus, poi è stata la volta del Tempio di Iside, tutto merito del progetto, il grande progetto Pompei, 105 milioni di euro di cantieri per la messa in sicurezza del sito, soldi in gran parte che venivano appunto dall'Europa, tutto sotto il coordinamento del generale Carabinieri Nistri. Adesso ha passato la palla a Luigi Curatoli, ma si va avanti così molto bene, tanto che le prossime tappe di questo percorso di rinascita di Pompei sono il 7 e l'8 luglio il concerto di David Gilmour dei Pink Floyd, che riporta i Pink Floyd nell'anfiteatro, ricorderete il celebre video live a Pompei. Il 12 luglio sarà la volta di Sir Elton John, che in una delle 3 tappe del concerto in Italia si esibirà proprio a Pompei. Vista così, Pompei è davvero cambiata. Ah, che bello, fa piacere sentirlo. Insomma, l'anno scorso Pompei ha fatto il record di visitatori, quasi 3 milioni di biglietti staccati, e questa è sicuramente una buona notizia. C'è anche l'addio di Fedez alla SIAE. Fedez, l'ultima svolta di Federico Lucia in arte Fedez è questa: abbandonare la SIAE per affidare la raccolta dei diritti d'autore a Soundreef, società emergente fondata da Davide Datri, specializzata proprio nella gestione dei diritti musicali. Dice Fedez, che ieri ha sottolineato quasi con un rito questa scelta: ho scoperto Soundreef perché sono appassionato di startup, mi ci sono appassionato perché riguarda da vicino quello che faccio, perché ho scelto loro, perché voglio sostenere chi fa della trasparenza e della meritocrazia dei valori fondanti. Cosa c'è che non va nella SIAE secondo Fedez? La SIAE è la società che si occupa dei diritti della musica, ma è anche quella cosa che devi pagare ogni volta che organizzi un evento in un locale pubblico, o anche semplicemente fai una festa di un evento, una festa di matrimonio per esempio, metti la musica, devi pagare la SIAE, questa cosa che in molti non riescono a capire, a credere. Sono i diritti di chi fa la musica, benissimo, però dice Fedez: non voglio demonizzare la SIAE, certo ci sono parecchi aspetti nella gestione che mi lasciano perplesso. Hanno investito in immobili per 200 milioni di euro, 4 dipendenti su 10 della SIAE sono assunti per vie parentali, il presidente Filippo Sugar, persona che stimo molto, è anche a capo di una etichetta, credo ci sia un conflitto di interessi. La SIAE risponde: il signor Fedez forse si è informato male, non sa le cose. E va bene, questo è quanto riguarda il dibattito nel mondo della musica. Però c'è anche spazio sulla stampa di oggi per una storia, una bella storia di calcio. Leicester a un passo dal sogno. In Inghilterra Claudio Ranieri alla guida di questa squadra un po' outsider sta per vincere la Premier League, e soprattutto capolavoro Crotone, ecco la Serie A. Cosa succede? Che arriva la prima promozione in Serie A in 106 anni di vita calcistica per il Crotone. Da parcheggio preferito delle squadre di Serie A per far crescere i propri giovani, a uno dei tanti esempi di una Serie A, con buona pace dei pensieri di Lotito, sempre più affollata di provinciali. Lotito, che ricorderete, in alcune intercettazioni diceva: ma lasciale stare fuori queste squadrette, vogliamo una Serie A solo di grandi nomi. E invece niente, arriva il Crotone, che però è una bella storia, perché in questi anni la squadra, sotto la direzione aziendale di Raffaele Vrenna, ha sfornato campioni: Pellè, Nocerino, Ogbonna, Nicola Sansone, Florenzi, Cataldi, Bernardeschi, tutti giocatori che sono passati di là e sono andati poi a fare grandi le grandi squadre. Insomma, una piccola Barcellona del Sud Italia, e vedremo se reggerà poi all'urto della Serie A. Dall'altra parte invece la storia di Claudio Ranieri, che è a 3 punti sul piatto domani a Manchester da una cronaca che sarebbe già leggenda: trionfare nel campionato dei nababbi, la Premier League, il più ricco campionato del pianeta, con una squadra che ha il quarto minor monte stipendi di Inghilterra. E complimenti a tutti e due, al Crotone e a Claudio Ranieri. Ci fermiamo qua, vero? Finito lo spazio, adesso c'è il giornale radio. Noi ci risentiamo subito dopo il GR con Si può fare. Ciao, a dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Uptown funk you up. Uptown funk you up. 'Cause Uptown funk don't give it to you. 'Cause Uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. E buongiorno a tutti cari ascoltatori da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini, buongiorno e buon sabato. Quando sono le 8:18 minuti, quasi 19 minuti di sabato mattina, riparte una nuova puntata di Si può fare. Stiamo insieme fino alle 10 all'800 24 00 24, come ogni sabato e domenica mattina, ma come sempre su Radio 24 vi aspettiamo per chiacchierare con noi, per commentare le notizie di questa settimana, sempre a caccia di buone notizie, buone, buone pratiche o pezzi buoni di notizie anche non buone. Ci proviamo. Per esempio, una buona pratica è questa, è una campagna di Oxfam Italia, lo voglio dire subito, in apertura: sfido la fame. Una persona su 9 nel mondo soffre la fame, 795 milioni di persone ancora nel mondo. Per il 98% vivono nel sud del mondo. C'è da dire che negli ultimi anni sono diminuite queste persone, fortunatamente. Dal 1990 ad oggi c'è stato un calo di 200 milioni di persone, erano un miliardo 20 anni fa, adesso sono sempre troppe, 800 milioni. Ebbene, dal 24 aprile al 9 maggio è possibile contribuire per cambiare le cose sostenendo i progetti di Oxfam a favore delle donne grazie a una donazione con SMS solidale o chiamata al telefono fisso al 45509. Una campagna di cui anche Radio 24 è media partner, sostenuta da Malika Ayane, tra gli altri l'ex ciclista Davide Cassani, Nadia Toffa, sono le facce che vedete in giro a sostegno di questa importante campagna. 45509, SMS solidale. E poi vi aspettiamo per giocare con noi, cari ascoltatori. Assolutamente. E c'è una storia da raccontare. Ah, c'è una storia da raccontare, giusto? In questa settimana, sì, notizia che ha fatto molto ridere, ha fatto molto il giro di internet. Martin Castrogiovanni, il pilone della nostra squadra italiana di rugby, ha detto alla sua squadra che per problemi familiari doveva andare in Argentina. E quindi la squadra ha detto, va bene, ci mancherebbe altro, vai pure in Argentina. Un parente malato, una cosa grave, no? Ho letto solo problemi familiari, nel senso che non entrano per fortuna così nello specifico. Ma tanto gli hanno dato il permesso, tanto che lui non ha giocato la semifinale di una partita importantissima, e dopodiché si è fatto fotografare a una festa di Ibrahimovic che era a festeggiare. Lui era in piscina a Las Vegas, se non ricordo male, che ballava in piscina. Ecco, quindi direi, vi chiediamo quali sono le vostre scuse che hanno scoperto in maniera così palese, in maniera così anche un po' vergognosetta, perché tra l'altro va anche detto che Castrogiovanni adesso rischia anche, addirittura qualcuno parla di licenziamento, perché effettivamente tu dici un problema familiare, poi in realtà vai alla festa di Ibrahimovic, insomma. Io ho pensato se c'era qualcosa da salvare in questa cosa di Castrogiovanni, una bravata, una cosa tra amici, però in effetti non puoi saltare la semifinale della tua squadra per andare a festeggiare la squadra di un altro. Credo che anche i tifosi della sua squadra siano abbastanza imbestialiti con lui. Allora, cari ascoltatori, all'800 24 00 24, chiamateci per raccontarci proprio la vostra scusa più scoperta, scusa, come l'hanno scoperto, perché non c'è solo internet, come ben sappiamo. Certo, internet aggiunge una grossa possibilità. Poi in questi giorni in cui si sta festeggiando i 30 anni, anni di internet, che sono 30 anni il di primo... figure di esatto. No, vabbè, insomma internet ci ha cambiato la vita tanto. 30 anni, era il 29 aprile 1986 e quindi festeggiamo con ieri era l'Internet Day. E adesso andiamo ad iniziare con la prima storia di oggi. È un si può fare interrogativo, è una proposta che riguarda i centri storici delle nostre città. Stop ai fast food. Butta la pasta. Se mangia bene, se beve bene, si sta yeah yeah. Se mangia bene, se beve bene, si sta yeah yeah. Se mangia bene, se beve bene, si sta yeah yeah. Se mangia bene, se beve bene, si sta yeah. We'll va bene, dopo, ricorderete, ne abbiamo parlato anche noi, dopo il regolamento definito anti-kebab varato a Firenze dal sindaco Dario Nardella e dalla sua giunta, che impedisce la nascita di nuovi fast food in particolare, cioè più in generale, quindi non solo kebab, nel centro della città, richiamandosi al fatto che il centro della città di Firenze è patrimonio UNESCO. Adesso il PD propone una legge nazionale per tutti i siti UNESCO che assomigli proprio a questo modello. Firenze, ne parliamo con colei che propone questa legge, la senatrice Rosa Maria Di Giorgi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, onorevole, sappiamo che il diavolo si annida sempre nei dettagli, quindi non vogliamo sbagliare. Ci dica lei che cosa esattamente intende vietare o consentire questa proposta di legge nei centri storici delle città e nei siti UNESCO. Beh, l'avete già detto voi e lo ripeto, bisogna evitare di ledere con ferite che secondo noi sono ferite che riguardano davvero il mondo della cultura, il mondo e la vita delle città, ledere quelle che sono invece quello che è un grande patrimonio che noi abbiamo. Quindi i siti UNESCO, innanzitutto questa legge riguarda i siti UNESCO, sono 51 in Italia, e in prospettiva speriamo che si possa allargare il discorso ai centri storici di tutte le città. Intanto partiamo dai siti UNESCO perché, come dire, da qualche parte bisogna cominciare. I siti UNESCO che in questi anni, come sappiamo, a causa di leggi che nel nostro paese ci sono state, sono leggi che hanno consentito la liberalizzazione di tutto il commercio, per cui non era più necessario neanche chiedere il permesso, bastava fare una comunicazione e potevi aprire un negozio di qualsiasi natura dappertutto nelle nostre città. Era per favorire il commercio, non voglio criminalizzare nessuno, però sicuramente abbiamo fatto anche qualcosa di negativo nei luoghi di arte e nei luoghi che invece vanno protetti. Quindi c'era già una protezione relativa ai siti UNESCO che riguardava, diciamo, la parte muraria, il patrimonio storico artistico, e quindi i siti protetti con una convenzione particolare dell'UNESCO relativamente alla conformazione architettonica, storico artistica, sì, eccetera. Noi cosa abbiamo introdotto con questa legge? Con questa legge noi diciamo che è importantissimo anche il patrimonio cosiddetto immateriale, protetto appunto da una convenzione UNESCO del 2003. Quindi i siti italiani UNESCO devono applicare questa convenzione. Con la nostra legge questo si farà. Che cos'è il patrimonio immateriale? Il patrimonio immateriale è tutto ciò che rappresenta l'anima, la vita di un luogo. Anche i negozi e i commerci, per esempio. I negozi, il commercio, gli artigiani, qui c'è la protezione delle botteghe storiche, c'è la possibilità di favorire, di conservare quella che è anche la tradizione dei ristoranti tipici, quindi non più, come bene voi dicevate, ristoranti, negozi simil multiculturalismo, perché poi di questo si è trattato, perché di fatto poi non c'era la qualità garantita. E quindi senza dover chiudersi al mondo, perché non è che questo vogliamo farlo, poi sicuramente non certo noi del Partito Democratico, però certamente un pochino, però dobbiamo proteggere. Un pochino appare questo, nel senso che lei dice senza chiudersi, nel senso che io mi chiedo, ma un kebabaro è una ferita? Lei giustamente sta dicendo vanno difesi i luoghi d'arte che vanno protetti, ma un kebabaro è una ferita? Ma diciamo che tanti kebabari sono sicuramente una ferita, se in una strada ce ne sono tanti. Tanti mini market che poi vendono alcol e che non rappresentano, che hanno cambiato il volto del sito, sicuramente sì, non ho difficoltà a dire di sì. Ma non direi soltanto questi, direi anche grandi negozi di grandi firme o di soggetti che in qualche modo cambiano troppo il volto dei siti UNESCO, che devono essere protetti, ma non per cristallizzarli, per mantenere quella che è la grande tradizione. Le botteghe storiche sono state cacciate. Di Giorgi, poi torniamo sulla questione kebab o non kebab, o che cosa esattamente si intende per una ferita del centro storico, ma mi finisca la storia. Chi è che dovrebbe valutare, cioè dove inizia la ferita e dove invece... Certamente. Quindi saranno, chi sono, i consigli comunali, i sindaci, sì, in persona? I sindaci, no, i sindaci che dovranno decidere se dare un permesso o no rispetto all'apertura di un negozio. Ma mi scusi, se, vediamo se sbaglio, vediamo se ho capito male. Per il sindaco Nardella il kebab è una ferita, quindi basta kebab in centro storico a Firenze, sito UNESCO, in un altro sito a San Gimignano. A San Gimignano il sindaco gli piace il kebab, però non gli piace la paella e quindi stoppa la paella? Questo è riduttivo, assolutamente riduttivo. Ci sono i parametri che verranno definiti, che in parte, come se voi l'avete vista, ma insomma spero che i sindaci la guardino, in parte sono anche nel regolamento che è già attivo nel Comune di Firenze e che naturalmente va rinforzato con una legge nazionale. Ci sono dei parametri precisi, per cui ci sono distanze, c'è una scelta che viene fatta da una commissione all'interno del comune sito UNESCO, di quella parte del comune sito UNESCO. A Firenze ad esempio è il centro storico, a Venezia lo stesso. No, anche perché sono giganteschi, perché uno magari si immagina che il sito UNESCO sia solamente una piazza, invece si parla per esempio di tutta San Gimignano, giusto? Sì, certo. Ci sono poi dei piccoli centri che sono assolutamente siti UNESCO complessivamente. Infatti il sindaco di San Gimignano è il presidente dei sindaci, diciamo, siti UNESCO, che hanno città con parti che sono completamente siti UNESCO. Quindi si tratta di riproporre la sfida culturale, diciamo, all'interno delle nostre dei nostri luoghi più preziosi, che sono intanto i siti UNESCO, e si parte da lì. Certamente bisognerebbe che poi, a partire anche da questa nostra legge, si potesse allargare la discussione e anche la normativa relativamente ai particolari, ai centri storici che non sono già stati definiti siti UNESCO, ma che di fatto sono da proteggere. Ma e quindi oltre ai siti UNESCO, lei dice anche i centri storici. Io ho un dubbio, che però forse sono io che sbaglio, nel senso che ho la sensazione, girando per l'Italia, in tantissime città per esempio esiste Piazza delle Erbe, e Piazza delle Erbe era notoriamente la piazza in cui venivano vendute le spezie da tutto il mondo, e questo da sempre, dai tempi del Medioevo. Quindi io mi chiedo, ma perché noi adesso siamo così spaventati? Per cui un tempo, appunto, i centri italiani, che erano esattamente il centro della cultura, i siti che adesso sono dei siti UNESCO, i centri più belli del mondo, non avevano nessunissima paura ad avere uno splendido mercato dove persone da tutto il mondo venivano a vendere le loro spezie. E noi adesso invece, siccome c'è un comprooro o un kebabaro o qualcuno di un altro paese che fa delle cose che non ci corrispondono, allora gli vietiamo per legge di aprire un negozio. Non mi è molto chiaro. No. Dunque, innanzitutto i mercati sono qualcosa di interessantissimo e che non viene assolutamente toccato da questo provvedimento. Qui si tratta di negozi di punti fissi, naturalmente, quindi proprio di veri e propri luoghi del commercio che in qualche modo vanno a cambiare completamente il volto di un centro storico, ma non parlo soltanto di, ma anche il mini market italiano piazzato, della catena italiana piazzato in un certo luogo, non va bene. Ecco, non cerchiamo di non... Ma come fa a non andare bene un mini market? Scusi? Come fa a non andare bene un mini market? Nel senso che perché non è medievale un mini market? No, non si o perché vende alcol? No, non si parla di essere medievali, si parla di mantenere quelle che sono le botteghe artigiane laddove è possibile, si tratta di mantenere quelle che sono le botteghe storiche, si tratta di mantenere le librerie. Lei ha visto quello che è successo nei centri storici e anche nei siti UNESCO, ovviamente, ma diciamo nei centri storici delle nostre città. Certo. Hanno chiuso tutti questi negozi. Perché? Perché non sostengono la concorrenza relativamente agli affitti rispetto alle grandi catene. Non è evidente che un artigiano non riesce a mantenere un affitto alto, quindi poco alla questo volta è vero, chiude. Questo è vero, questo è vero, abbiamo visto chiudere librerie, cinema, piccoli negozi, parliamo anche dei cinema. Sto fuori dei centri UNESCO, perché parlo del quartiere, non so, di casa mia dove abito a Milano, non siamo né in centro storico né tantomeno in un sito UNESCO. Questo vale per tutte le nostre città. Vale un po' per tutto, infatti. Non si può nemmeno avere però solo i negozi, nel senso che lei giustissimamente dice le botteghe artigianali che sono fondamentali, però in un centro come San Gimignano servirà anche un mini market, sennò diventa un museo quello, sennò diventa difficile adesso, viverci. Sì, ma certamente, ma non ci sarà certamente un sindaco obsoleto e oscurantista che non troverà l'equilibrio. Si tratta però di ridare questa possibilità al sindaco, che è eletto dalla cittadinanza e quindi deve avere la possibilità di decidere. In questo momento non decidono più per i sindaci, perché c'era una legge nazionale che prevedeva che ci fosse la liberalizzazione assoluta. Quindi dobbiamo sempre interpretare le cose in modo equilibrato, non c'è mai una legge che dice. Quindi cerchiamo, adesso abbiamo ridato ai sindaci la possibilità di decidere insieme ai loro consigli comunali, una domanda, insieme alla gente. Una domanda luogo. Di Giorgi, a fianco al divieto e quindi diciamo al filtro che i sindaci metteranno che i sindaci metteranno nei siti UNESCO per questo tipo di nuove botteghe che potranno o non potranno aprire, ci saranno dei fondi per incentivare la libreria, la bancarella, l'esposizione dell'artigiano per sostenere la concorrenza di cui lei parlava prima, perché altrimenti non apriranno quelli, ma non apriranno nemmeno gli altri. Bravo, infatti, questo è giustissimo. Ci sono alcuni sindaci che io definisco intelligenti che già si sono mossi in questa direzione nei centri storici in generale, dove gli affitti sono altissimi, per cui ad esempio hanno eliminato l'IMU per quei negozi, questo per dire, tanto per citare ancora il sindaco Nardella, insomma a Firenze questo è fatto. Si possono fare tante cose. Se si fa una legge in Parlamento, forse qualche finanziamento dovrebbe arrivare anche da Roma, non lasciare poi sulle spalle dei sindaci. Questo è vero, lei capisce quanto è ampia la rete commerciale e quanto sia complicato fare questo, però in certi ambiti stiamo lavorando esattamente proprio sulle botteghe storiche per dare delle facilitazioni, nel momento in cui sono definite botteghe storiche, perché non tutte possono essere definite tali, c'è una normativa che prevede la loro definizione, quindi tot numero di anni, eccetera. Ecco, per queste botteghe storiche c'è già una piccola protezione, noi vorremmo con una norma che stiamo predisponendo adesso, quindi mi fa dire una cosa un pochino in anteprima. Ecco, brava, noi siamo qui per questo, sì? Adesso, sì, vada. Sì, stiamo prevedendo delle facilitazioni, erano presenti infatti anche l'altro giorno a Roma la presentazione di quest'altro disegno di legge, anche i rappresentanti delle botteghe storiche, i rappresentanti nazionali, perché è giusto dare una mano in questa direzione. Per quanto riguarda i cinema lo stiamo facendo, l'abbiamo fatto, c'è la legge che stiamo discutendo adesso, così mi dà l'opportunità anche di dire questa cosa, se mi permette, sì. Sulle sale storiche. Stiamo dando col ministro Franceschini, c'è una legge nuova che discutiamo proprio in questi 15 giorni si occupa di cinema e dà un contributo importante a fondo perduto a tutti coloro che vogliono rimettere in piedi delle sale storiche, ristrutturarle, ma non soltanto storiche, perché vogliamo pensare anche alle periferie in questo caso. Però 90 milioni sono distribuiti in 5 anni a fondo perduto, quindi chi vuole ristrutturare cinema, chi vuole ristrutturare sale per ricreare socialità dappertutto nel nostro paese lo può fare, naturalmente anche le sale storiche dei centri storici. Va bene, staremo a vedere. Intanto grazie Rosa Maria Di Giorgi, senatrice del PD, che ci ha illustrato questa proposta di legge allo studio. Se tu vai a Parigi, in centro a Parigi, tra Boulevard Saint-Germain e Boulevard Saint-Michel, trovi, sì, delle librerie ancora grandissime che hanno un sostegno del comune, della municipalità, ma anche dello Stato, perché si ritiene che quella zona di Parigi debba avere una certa immagine, però trovi tutto, trovi dal kebabaro alle librerie. A me piacerebbe che fosse così, però ci vogliono gli aiuti economici per aiutare una libreria a rimanere aperta in un centro storico, altrimenti non solo arriveranno i kebab, ma arriveranno tante altre cose di moda, profumerie, e chiuderanno tutti quegli altri. Banche. Tu dici servono gli aiuti economici, ma in un momento in cui i soldi non ci sono, uno dice gli aiuti economici se non possono andare a degli esercizi che in realtà fanno commercio, perché diventa molto difficile, nel senso che diventa molto difficile dire, quando si parla di Jobs Act, liberalizzazione totale, quando si parla invece di negozi, allora no, uno dice no, qua nel centro storico può starci solamente chi fa la focaccina. 800 24 0024, cari ascoltatori, vi siete convinti di questa proposta oppure no? Chiamateci, noi siamo qua, vi aspettiamo anche per raccontarci la vostra, come possiamo definire? Scusa, sgamata. Peggio sgamata, o meglio sgamata. Come è accaduto a Castro Giovanni. Logisticamente, Modul Block. Scarica l'app Modul Block e vivi l'esperienza in realtà aumentata. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno Pietro all'800 24 00 24, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Un attimo sul tema dei kebab a Firenze. Ecco, io credo che non sia tanto un discorso legato a tanti o pochi, se sia più o meno democratico o aperto averne tanti o pochi. Il tema è che, a mio avviso, il turista che viene a Firenze con l'idea di vivere un po' di Toscana, un po' di storia, un po' di cose così. Giusto. Quindi, secondo me, in termini di coerenza, è molto più coerente avere una strada piena di osterie, trattorie o cose che sono prettamente toscane, perché fanno proprio parte della tradizione, ed è quello che la gente vuol trovare. Il kebab lo trova anche a San Francisco o a... Guardi, secondo me ha molta ragione in questo, nel senso che è come dire, un turista che viene, anche quelle vie lì del centro fanno parte della visita turistica. I dubbi che mi vengono in realtà, da un lato sono che comunque molti di questi siti, cioè in Italia sono talmente tanti, c'è molta gente anche che ci vive normalmente, quindi anche uno che vive lì e che magari il giovedì ha voglia di mangiare un kebab, perché non è che può mangiare tutti i giorni nella trattoria toscana del turista. Esatto, molto meglio il panino Lampredotto, io lo adoro. E l'altra questione è che, per esempio, noi stessi, cioè i ristoranti italiani, ne abbiamo aperti in tutto il mondo. Se uno a Boston ci avesse detto qua non si può aprire, a New York qua non si può aprire il ristorante italiano perché qua mangiamo solamente hot dog, poi uno giustamente può dire ho capito, ma la nostra cucina è molto più buona. Dico semplicemente che il dubbio è come mai, se nessuno di loro può aprire qua, com'è che noi possiamo aprire ristoranti in tutto il mondo? Ma sai, io non lo so se questa sia proprio la regola, voglio dire, non credo che ci sia una limitazione ai ristoranti italiani, però è anche vero che, almeno insomma, quello che ho sempre pensato nelle varie città anche grandi che ho visitato, magari c'era più il quartiere italiano, no? Quindi, che ne so, a New York c'è l'Italy, quindi ha molto senso che la strada sia piena di ristoranti italiani. Beh, i ristoranti italiani ci sono ovunque, però non comunque, è che sono solamente all'Italy. Esatto. Devo dire, Pietro, che lei ha ragione, nella strada del centro di Firenze ci aspettiamo di trovare le trattorie toscane, ci sono, non è che non ci siano. Purtroppo io sono ieri per turisti. Ero a Bologna passeggiando per il centro della città e le zone tutte intorno a Piazza Maggiore sono strapiene di ristoranti più o meno bolognesi, più o meno italiani. Ci sarà anche qualche pizzeria, qualche poi c'è kebab, McDonald's anche, c'è a un certo McDonald's punto. C'è di tutto, quindi mi pare che ci sia equilibrio da questo punto di vista. Ma naturalmente la legge interviene per fotografare la situazione e dire ecco, da adesso in poi basta a questo tipo di botteghe che non sono in linea con la città. Quindi la città, immaginiamocela così com'è adesso, che è già un compromesso tra tante cose. Semmai ci possiamo domandare, Pietro, perché c'è bisogno di un divieto e perché non aprono nuove osterie, no? Invece aprono nuovi kebab. Evidentemente c'è un qualcosa nella concorrenza che non va, che non funziona. Grazie Pietro. Ci facciamo fare Marco da Latina, no? Facciamo veloce, Marco. Sì, eccolo qua. Sì, eccomi qua. Intanto non ci sto cambiando niente perché pensavo che era del PD, che era della Lega che ha fatto una proposta del genere, me li trovo. Poteva essere, sì, sì. No, infatti ho detto alla fine, ho detto mi è sembrato strano, però va bene. E poi per quanto riguarda il discorso del kebab, io faccio anche un esempio pratico come famiglia. Vado all'acquario di Genova, spendo 90 euro con 40 con 4 persone, esco, faccio anche fatica effettivamente andare nei ristoranti tradizionali e anche se offrono quei menù a 15-20 euro. Quindi a me un kebab. Sogna di vedere un kebab. O una pizza, magari, o un McDonald's, certo. Sì, vado alla ricerca di questo. Poi c'è anche un altro discorso, che ci sono le persone del posto, specialmente a Genova, perché ce ne sono tantissime, che possono mangiare magari il kebab e non possono mangiare in altri ristoranti perché all'interno del cibo ci sono delle cose che loro mangiano. Cioè c'è tutto un discorso culturale dietro. Non è semplicemente il classico kebab che dà fastidio, perché è questo che sta sembrando. In Italia succede che il kebab vende più del ristorante, lo eliminiamo, non incentiviamo, non c'è un incentivo per i ristoranti, prodotto italiano 100%, quindi c'è uno sconto. No, eliminiamo i kebab e lasciamo gli italiani a morte certa, perché tanto loro l'affitto lo pagheranno lo stesso e tutto quello che viene, ecco, a livello di tasse non c'è nessuna agevolazione a parte... Dobbiamo, dobbiamo salutarti, Marco. Grazie, siamo andati lunghi sul traffico. 800 24 00 24. Torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ricordi Video Kill the Radio Star? E questa me è la ricordo. Internet Kill the Radio, the Video Star dei Limousines. E vi ricordo che tutte le nostre scelte musicali le ritrovate sulla pagina di Si Può Fare, sul sito di Radio 24. C'è la playlist di ogni puntata. Nei giorni in cui si festeggia, tra l'altro, i 30 anni, proprio il compleanno di Internet, c'è una invenzione che è stata premiata e selezionata all'interno di Neo Archimede 2016, il progetto Giovani e le Scienze, che avrà un passaggio a settembre anche a Bruxelles in Europa. E noi siamo in collegamento con Valerio Pagliarino, studente del liceo scientifico. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Di Nizza Monferrato, provincia di Alessandria, vincitore del premio Di Asti, uh-huh. Perché siamo lì nella zona, tra l'altro, bellissima delle Langhe, Alta Langa più o meno, no? Valerio? Sì. Tutto bene? Sì. Bene, bene. Vincitore del premio Neo Archimede, complimenti. Grazie. Allora, con una proposta, una sorta di invenzione vera e propria, un laser che consentirebbe di trasportare il segnale, la banda larga, laddove non c'è, quindi portare internet un po' come vuole fare Facebook, Zuckerberg. Sei un po' lo Zuckerberg dell'Alta Langa. Ci racconti con parole semplici la tua invenzione, la tua proposta? Sì. Vabbè, la mia proposta è nata proprio da una necessità, perché dove abito io la connessione a internet è proprio scadente. E allora la mia invenzione... Cioè non riesci a vedere un film, non riesci a scaricare nulla per... No, no, no. È una cosa proprio tristissima. Sì. Niente, la mia idea prova a portare la connessione a internet in fibra ottica fino a 500 mega, anche in queste zone. Che 500 mega non ce l'abbiamo nemmeno a Milano in centro, giusto? Eh sì, lo so. Ah, perfetto. Infatti, come tecnologia... avrebbe delle potenzialità. Sarebbe una bomba. Alte. E installando questi ricetrasmettitori sui tralicci dell'alta tensione, delle linee già esistenti, e questi ricetrasmettitori si scambiano fra di loro dei fasci ottici di luce invisibile, laser, e in questo modo creano una sorta di fibra ottica virtuale che unisce le grandi città ai piccoli centri, portando la connessione internet velocissima. In realtà non è un cavo vero e proprio interrato come si fa ora, No. Ma sono solo degli impulsi di luce proiettati nell'aria. Ma non cioè sarebbe... usi i pali della luce che già ci sono, sopra ci metti una sorta, scusami, io sono stupido e ignorante, poi è sabato mattina, quindi parlare di queste cose è veramente molto difficile. Mettere delle sorti di trasmettitori sui pali della luce che già ci sono, e questi comunicano fra di loro e portano la banda nel tuo paese, giusto? Sì, è una specie di telefono senza fili. È il primo trasmettitore situato nei pressi di una città fornita da fibra ottica parla con quello successivo, che parla con quello successivo e così via, fino ad arrivare poi ai trasformatori dell'alta tensione vicino ai piccoli centri, dove viene riconvertito in fibra ottica e portato alle utenze. Ma Valerio, la prima cosa che mi viene in mente è una paura. Non è che è uno di questi segnali inquinanti che emettono delle onde elettromagnetiche, questi laser, no? Non fanno male alla salute? No, anzi, tutt'altro. Anzi. Nel senso che è luce infrarossa, quindi non emette alcun tipo di onde radio, di onde elettromagnetiche in quello ci si può convivere tranquillamente, anzi è molto più salutare dei ripetitori delle tecnologie wireless. Ma quindi dobbiamo metterla anche da noi, cioè in realtà se l'invenzione funziona realmente non solo la linea ad Asti arriverà così, ma probabilmente anche a Milano, nel senso che togliamo tutti questi ripetitori e mettiamo la tua tecnologia che mi sembra più green. Sì, la mia tecnologia serve a costruire una sorta di dorsale che porta la connessione internet all'interno della città e poi qui viene portata agli utenti con la fibra ottica normale o anche con il rame fino a 100 mega. Ma scusa, sì. Valerio, ma tu l'hai provata, l'hai sperimentata personalmente questa cosa? Ma diciamo che sì, per questo concorso qui a Milano, sì, a cui ho partecipato, ho costruito un piccolo prototipo. E funzionava? Una cosa funzionava bene? Nei limiti delle possibilità che sì, ha un tiro massimo di un metro, così. Però comunque cioè, ho trasmesso in sulla streaming. Distanza del metro funzionava? Sì, sì, sì, ovviamente per poterlo utilizzare a distanze di diverse centinaia di metri, come poi succederà nelle condizioni operative vere e proprie, bisogna avere un altro tipo di attrezzatura. Senti com'è fiducioso, Valerio, succederà. Parla al futuro perché questa cosa, lui dice, a questo punto succederà. Appuntamento a settembre, credo, per la selezione finale a Bruxelles, vero Valerio? Sì, a settembre ci sarà l'EUCIS, il concorso europeo dei giovani scienziati, e per me è una grandissima opportunità. Noi tifiamo sicuramente per te. Intanto totalmente, i complimenti. E ti chiamiamo appena dopo. Per sapere com'è andata a finire. Grazie Valerio Pagliarino, inventore, studente, fantasioso, creativo del liceo scientifico di Nizza. E dobbiamo chiudere, ma chiamateci anche per le vostre scuse, se avete una scusa che avete detto ma vi hanno beccato, per esempio pubblicando una foto su internet come Castro Giovanni che ha detto che aveva dei problemi familiari, invece era a festeggiare con Ibrahimovic a Las Vegas. A dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Questa è Art Pop, niente meno che Lady Gaga. E vi ricordo che tutte le nostre scelte musicali le ritrovate sulla pagina di Si Può Fare sul sito di Radio 24. Ci sono le playlist di tutte le puntate. Diamo il buon sabato, lo abbiamo convocato a Mauro Felicori, il direttore della Reggia di Caserta. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Facciamo una capatina nella meravigliosa Reggia di Caserta. Domani è il 1° maggio, si festeggia. E voi però lavorate? Beh sì sì, è aperto, non solo è aperto per il 1° maggio, ma è la prima domenica del mese, quindi il museo è aperto gratuitamente. Bellissimo, quindi domani è l'unplan proprio, domenica 1° maggio, festa, museo gratuito, di più non si può chiedere. Sì sì, gli appartamenti sono gratuiti, il parco abbiamo dovuto mettere un piccolo biglietto perché per noi le prime domeniche sono una specie di alluvione culturale che arriva un sacco di gente. Abbiamo avuto 20.000 visitatori. 20.000. Beh, insomma, quindi il biglietto del parco, quanto costa il biglietto per il parco? Il parco immenso della Reggia. Solo parco costa 5 euro. Gli appartamenti sono gratuiti, però possiamo dare solo 8.000 biglietti nel corso della giornata perché dobbiamo tutelare gli appartamenti e anche i visitatori, ovviamente. Certo, certo. Però queste domeniche hanno dimostrato che c'è una domanda di cultura ancora enormemente inespressa e inevasa, quindi

ce l'ha fatto capire anche lei, di fondi, no? Per valorizzare, per tutelare e valorizzare il patrimonio. Questo sistema ideato dal ministro Franceschini, cioè ideato, rilanciato, sta funzionando? Al sud non sta funzionando, però è una grande idea, perché al vecchio modello lo Stato prende i soldi nelle tasche dei cittadini e li dà a un mondo della cultura implorante, si sostituisce un modello in cui non solo le imprese ma anche i cittadini con l'IOTEF possono dare direttamente i soldi ai progetti culturali. Quindi è una grande rivoluzione che faticherà ad affermarsi, abbiamo appena cominciato a spiegarla, ma credo che nel tempo si rivelerà preziosa. Ma perché, scusi, Filicori, perché al sud non sta funzionando? Perché l'IRPEF al sud è più bassa, cioè nel senso le buste paga sono più basse? No, beh, ci vuole tempo, è una misura... Beh, al sud funzionerà comunque peggio che in Lombardia, questo è agevole prevederlo, però l'IRPEF sono più bassi, i profitti sono più bassi quando ci sono, certamente, però diciamo non... Non vi arrendete. È sbagliato vedere adesso i risultati, è presto per vedere i risultati. Va bene, grazie Felicori, buon sabato e buon primo maggio alla Reggia di Caserta soprattutto. Arrivederci. Grazie. Eccoci qua, 800 24 00 24, cari ascoltatori, vi aspettiamo tra poco dopo il traffico e poi... Vogliamo le vostre scuse dove vi hanno beccato, dove avete pubblicato, avete detto che eravate malati, avete pubblicato una foto in cui eravate a ballare in discoteca. Voi o i vostri amici, insomma un po' come è accaduto a Castro Giovanni, che invece di andare a giocare la sua partita con la squadra di rugby è andato a festeggiare a Las Vegas insieme a Ibrahimovic. Si può fare. Cronache da un paese migliore. La sola colpa di Michele è di amare troppo la sua terra. La sola colpa di Michele essere un sognatore, la sola colpa di Michele è di voler crear lavoro, la sola colpa di chi è onesto e che rimane spesso solo. Questa è Si può fare, questa che abbiamo appena ascoltato è Michele di Domenico Bucarelli, canzone che racconta la storia vera di denuncia al racket. È una canzone che ci è stata segnalata da Domenico Guinea su Facebook. Vi ricordiamo che noi stiamo sempre cercando dei si può fare in musica, ovvero se siete dei musicisti, dei cantanti, dei compositori o anche semplicemente se ascoltate una canzone dove vi sembra di ravvisare bene il concetto di si può fare, vi chiediamo di segnalarcela, così noi la faremo sentire in onda in diretta e poi la metteremo nella nostra playlist dove ritrovate tutti i nostri si può fare in musica. Ce la potete segnalare mandandoci una mail a sipuofare@radio24.it oppure segnalandocela sui nostri social, per esempio su Facebook sipuofare_radio24 oppure Twitter @sipuofare24 oppure sui nostri account personali. Il mio è @carlogabardini. E c'è anche il mio, @AleMaurizzi. Allora, cari ascoltatori, ne abbiamo uno, Giacomo, che chiama da Bolzano. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Allora. Sì, non mi spiace di arrivare, che il direttore di Caserta, della Regia, sia già andato via. Lui, volevo solo segnalare una cosa, l'idea è bellissima, quella lì, innovativa, la marchettara della sponsorizzazione della cosa. Volevo solo dire, l'anno scorso, a giugno, fine giugno, siamo stati in sei a vedere la Regia. La Regia è una bellezza unica che consiglio di andare a vedere a tutti chi non l'ha vista. L'unica cosa che... Allora, il bagno in alto, in cima alle passeggiate, sopra l'ultima fontana, non funzionava. Aspetti un attimo, Giacomo. Allora. È bello perché è molto preciso e sicuramente che... Mauro Felicori, il direttore della Regia, ci sta ascoltando. Che cos'è che non funzionava esattamente? Allora guardi, ci sono in cima alle passeggiate, sì, alla fine delle passeggiate, prima di entrare nel giardino, c'è una serie di fontanelle dove uno può andare a bere qualcosa, un goccio d'acqua, visto che ha fatto la strada piedi e stanco o così via. E non funzionavano, non c'era l'acqua, c'erano i due addetti, ho detto adesso arrivo, non è arrivata. Il gazebo che c'è vicino, che doveva distribuire delle bibite alle 11 del mattino, non è ancora aperto. I bagni inavvicinabili, sia quelli in alto che quelli a metà. Perché inavvicinabili? Perché? Perché c'era una sporcizia. Erano sporchi. Allora, quando accadeva tutto questo, quando accadeva tutto questo? Perché una cosa così bella va tenuta molto meglio. A giugno, l'ultima chicca era 14:45. Sì. Volevamo acquistare un libro, così andiamo, perché c'era scritto che il negozio di libri era aperto fino alle 15, mancava 15 minuti, quindi era chiuso. Sa, l'operatore abita a Napoli, ci ha risposto. Va bene, Giacomo, questo era giugno dell'anno scorso, se ho capito bene. Bisogna dire, a onor del vero, che Felicori è arrivato, credo a ottobre, a novembre, è stato nominato. Sicuramente ha già risolto questi problemi. Io me lo auguro. Adesso apriamo una sfida con gli ascoltatori che sono stati recentemente alla Reggia di Caserta. Tutti i disservizi di cui parlava Giacomo, che c'è sono stato stati risolti o no? Quindi ripetiamo, la fontanella in cima al percorso delle passeggiate, i bagni sporchi. E la libreria chiusa un quarto d'ora prima. Se avete notizie in questo senso, chiamateci. Poi noi richiamiamo Felicori e glieli facciamo presente, perché così non si può andare avanti, no? Non è possibile. C'è adrenalina nell'aria, carne fresca che gira, polvere sulla strada, gente che se la tira. Io tocchi e tocchi, una campana suona per i gabbiani che calano sulla Bagnana. E spunta il sole sui terrazzi della Tiburtina e tutto si arroventa e tutto fuma per le strade di Roma. E parliamo del caos rifiuti che c'è a Roma. Per le strade di Roma speriamo che non succeda come è già successo l'anno scorso, in vista dell'estate, l'arrivo dei turisti, che c'erano i cassonetti che traboccavano, un po' come è successo con l'emergenza di Napoli tanto tempo fa, un'emergenza anche quella alle spalle, però bisogna ricordare che a Napoli hanno risolto mandando le coballe, i rifiuti all'estero, negli inceneritori, in Germania. È quello che potrebbe succedere anche a Roma. E allora, di fronte a questa incertezza, dove potevamo andare noi? Dove potevamo rivolgerci noi, Carlo? Dove? Da chi potevamo andare? A Capannori! Certo, dal nostro maestro Ercolini. Rossano, buongiorno! Buongiorno. Buongiorno. Per una volta veramente a Capannori, perché in genere. Ma come? Spesso. Non in treno. Niente trasferta. Orca miseria. In genere, Rossano, in giro per l'Italia a portare il verbo zero waste, zero sprechi, zero rifiuti. Rossano, aiutaci tu a capire, cioè non è che ci sia molto da capire, Roma ha un grossissimo problema di gestione dei rifiuti da anni, la discarica di Malagrotta ormai ritenuta illegale, è stata chiusa, riaperta, richiusa, riaperta, ci sono dei contenziosi anche legali, adesso Roma è al bivio, deve addirittura forse esportare i propri rifiuti all'estero. Sono ancora in tempo a risolvere la questione? Come, Rossano, secondo te? La domanda è da milioni di punti, diciamo che Roma è stata bloccata per anni nell'applicazione di buone pratiche. Infatti Lazio e Roma in particolare, nonostante Rutelli, sindaco, quindi di provenienza addirittura verde, ambientalista, oppure certo, l'illuminato Veltroni, nonostante queste gestioni, poi di fatto chi ha imposto lo stato dell'arte sulla gestione dei rifiuti è stato Colari, vale a dire l'avvocato Cerroni, con la sua discarica si è impedito, si è fatto da tappo perché non partissero le buone pratiche. Adesso bisogna dire che Roma ha superato il 40 e qualcuno ente accreditato, tra l'altro le attribuisce il 45% di raccolta differenziata, perché in alcuni... Aspetta un attimo, Rossano, perché qua già ci hai dato due elementi. Il primo elemento è che finché a dettare legge a Roma c'era in qualche modo l'introito economico della discarica del signor Cerroni, è chiaro che tutto il resto passava in secondo piano, porta a porta, raccolta differenziata e quant'altro. Adesso però siamo arrivati a un 45% di raccolta differenziata, nel silenzio non se ne è accorto nessuno, è un dato grosso questo qua, o no? Mi sembra a me. Certamente 700.000 tonnellate di rifiuti all'anno sul 1.700.000 di tonnellate prodotte dalla capitale, considerate che la capitale ospita il Giubileo, quindi voglio dire è continua meta di manifestazioni, quindi di rifiuti che provengono da fuori. Ecco, nonostante la complessità di Roma, in alcuni municipi è partito il porta a porta e i risultati traguardano molto di più del 60%, mediamente un 60% dove si fa il porta a porta, quindi anche i romani, anche i seguaci della Roma, della Lazio, in questo caso non importa, sono bravi a differenziare quando gli si dà la possibilità. Bisogna dare atto ad un avversario, tra virgolette, con rispetto democratico, come Daniele Fortini, che è amministratore unico di AMA, qualcosa è cambiato, anche perché la gestione Marino sulla partita dei rifiuti era aperta a rifiuti zero. Marino era andato a San Francisco a capire come funziona Zero Waste, l'assessore Estella Marino, la ragazza, la signora Estella Marino, che io ho incontrato varie volte, perché non dimentichiamolo che Roma aveva adottato la delibera rifiuti zero, che era sotto istruttoria da parte nostra perché non la ritenevamo fino in fondo credibile e attuabile. Però qualcosa si stava muovendo. Perché come noi diciamo sempre, noi promotori delle buone notizie, bisogna poi verificare che agli annunci seguano i fatti. Certo. Poi nel caso di Marino è inciampato non sui rifiuti ma sugli scontrini, e poi è andata a finire come è andata a finire. Però tu dici, di fatto si è messa in piedi una raccolta differenziata che oggi, per cui insomma oggi Roma ha messo in piedi un sistema che potrebbe essere un po' più sostenibile, ma c'è forse il pregresso da smaltire. Come funziona con tutti quei... Le eredità sono pesantissime, i contenziosi ancora in corso, perché anche la stessa partita dell'esportazione dei rifiuti va letta all'interno di una complessità più ampia, perché l'idea di Fortini è quella di dire: io esporto 160.000 tonnellate in Germania, la Gran Bretagna ne esporta 5 milioni di tonnellate in Germania, perché gli inceneritori ormai non funzionano più con i rifiuti che trovano a livello nazionale, hanno bisogno, soprattutto quelli del nord, molto, molto elevati dal punto di vista della capacità di trattamento, rimarrebbero a vuoto e quindi devono importare rifiuti. Nel frattempo però queste 160.000 tonnellate, cioè il 10% dei rifiuti romani, affronto la questione applicando le raccolte differenziate, trasformando i tre impianti di trattamento meccanico biologico di cui è dotato il sistema AMA per trasformarli in ecodistretti, per recuperare, riciclare, eccetera, queste eccedenze transitoriamente, in un ambito di 3 anni, io le porto fuori Stato, insomma fuori nazione. E quindi da un certo punto di vista non si legga nelle mie affermazioni una sorta di velata compiacenza con questa progettazione, però diciamo, non sia mai, perché è chiaro che se fosse per Rossano Ercolini, che da 20 anni va dicendo queste cose, Roma non avrebbe tutti questi problemi, perché ci sarebbe tutti i cassonettini, tutto differenziato, tutti 10 passi per i rifiuti, ci sarebbe il centro studi dei rifiuti come c'è a Capannori, dove avete addirittura convinto delle multinazionali a cambiare progettazione delle loro cose perché non erano smaltibili in termini di rifiuti. Un caso su tutti, quello della capsula del caffè, per cui la Lavazza vi è venuta dietro, ma non solo, no? Perché anche Verniano, mi dicevi l'altra volta, praticamente tutti adesso fanno capsule, colpa vostra se fanno, cioè merito vostro se fanno. Sì, purtroppo la situazione non è così brillante, nel senso che spesso il marketing è anche un po' ambiguo, si continua a dare con la mano sbagliata, quindi i non riciclabili, però abbiamo comunque contribuito a far sì che il marketing sia preparato a raccogliere anche dalla mano giusta quella, diciamo, che rende tutti gli imballaggi digeribili dal sistema di digestione dei rifiuti. Quindi certo, Roma è una complessità, però non a caso Roma Mafia Capitale aveva nella questione dei rifiuti un retroterra in cui piantar radici. La questione dei rifiuti, voi sapete. Io dico solo questo. Ora non vorrei cacciarti nei guai, perché tu già fai il maestro, hai un lavoro, poi fai l'attivista zero waste, hai già tante cose da fare, hai vinto il premio nel 2013 di riconoscimento internazionale. Però io, se fossi a Roma, con tutti i casini che c'hanno con i rifiuti e la nuova giunta, visto che Di Maio del 5 Stelle l'ha detto, faranno un bando per i ministri, ma qualunque partito andrà al governo dovrà trovare le migliori eccellenze. Una mano a Ercolini io gliela andrei a chiedere, no? Un'idea su come fare, perché secondo me Ercolini lo farebbe l'assessore di Roma? No, l'assessore non lo so, poveraccio. Lo faresti l'assessore a Roma? No, ora, io, per carità, io amo fare quello che sto facendo, dare una mano, mi sento proprio un cavaliere che è stato investito nella condivisione di questa visibilità, di questo, tra virgolette, potere morale, e quindi mi piace molto questo. Però io, nel mio piccolo, sicuramente, al di là del ruolo assessore o non assessore, se a Roma verrà confermata una svolta che guarda in primis alle buone pratiche, il sottoscritto, ma anche tutta la rete che ruota intorno a noi, non solo a me, la mettiamo gratuitamente a disposizione. Certo. Allora, io lo ridico, un annuncio, Roma, diciamolo piano, sottovoce, se no ci sento. Roma, Capannori, Ercolini, per i rifiuti, andate lì, perché se no non ne uscite, dateci retta. Grazie, anche Rossano. Perché è gratis, appena detto. Grazie mille. Della vostra simpatia, della vostra e del vostro acume. Ciao, a presto. Ci proviamo. Grazie. Ti veniamo dietro, è per quello che abbiamo un pochino di acume, solo perché veniamo dietro a te, Rossano. E va bene. E va bene. 800-24-0024, ascoltatori, vi aspettiamo tra poco dopo la pausa. Sono Marta Cagnola e vi aspetto con il Sabato del Villaggio ogni sabato alle 15. Sono Daniele Bellasio, poi alle 17 arrivo anch'io, provo a rovinarti l'ultima ora del Sabato del Villaggio con Radio Tube. I liberi consigli per il fine settimana e tutto il meglio e il peggio della rete tutti i sabati alle 15 su Radio 24. Sentirsi con papà senza santi da pregare, si può fare. Eccoci qua, di nuovo, buongiorno e ben ritrovati da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno, buon sabato a tutti. 800-24-0024, c'è Giorgio che ci chiama da Mantova. Buongiorno Giorgio. Buongiorno. Buongiorno. Cosa volevi dire, su cosa volevi intervenire, Giorgio? Ma guardi, io l'anno scorso sono rimasto basito, sempre a proposito della rete di Zerta, perché abbiamo girato abbastanza in Europa per vedere luoghi di vacanza, eccetera, così, però praticamente siamo entrati e i custodi erano irriconoscibili, nel senso che erano in abiti civili. Finalmente. E abbiamo visto dei custodi addirittura in ciabatte. Cioè, ah, quindi... no, in abiti civili, scusi, nel senso che erano non in abiti, sì, non da lavoro, non divisa, in abiti da lavoro. Sì, perché questa è stata una battaglia di felicori, anche questa, l'obbligo di indossare la divisa e il divieto, tra l'altro, di circolare con le auto private, perché questo succedeva prima nel parco della Reggia. Ma c'è anche chi ci viveva, se non ricordo male. Ci sono state delle cose incredibili. Questo, scusi, però mi sono perso, Giorgio, quando avveniva? Avveniva l'anno scorso in luglio. E siamo come prima. Siamo sempre prima dell'avvento di Felicori. Diciamo l'anno prima dell'anno zero, che sarebbe l'evento di Felicori. Ammesso però che... forse i guardiani con le ciabatte è giusto, fa molto Reggia, fa molto casa, fa molto che ti accolgono. No, dai, fa tristezza. Vabbè, stavo cercando di trovare del buono, è vero, ho sbagliato. Ci dica qualcos'altro, Giorgio, che non le è piaciuto o che le è piaciuto della Reggia. Guardi, allora, intanto, vabbè, era periodo estivo, comunque i giardini erano poco curati fuori, c'erano le spalcature dovunque, e praticamente uno poteva avere accesso in vari posti senza essere controllato, insomma. Ecco. Sì. Diciamo anche qualcosa di positivo, però, perché così sembra, nel senso che abbiamo appena sentito Felicori, che invece ha risolto un sacco di problemi, che è tutto splendido. Domani il museo è anche gratis. Scusa, Giorgio lo può dire, lui ha visto una situazione che chiedevo non è se c'era una parte anche buona di questa visita alla Reggia. Ma no, la Reggia è bellissima, non c'è nulla da dire. È un peccato perché all'estero con poco riescono a valorizzare molto. Noi con molto riusciamo a valorizzare ben poco con certo. queste cose che danno, danno una cattiva immagine dell'Italia. Insomma. Va bene, Giorgio, grazie. Che voleva dire Carlo è che insomma adesso ci stiamo provando, almeno sulla carta. Il nuovo direttore Felicori si è preso anche le critiche un po' dei sindacati. Perché lavora troppo. Perché li fa lavorare troppo, addirittura c'è stata quella polemica perché rimaneva lavora troppo lui. Tardi la sera, quindi mettendo a rischio la sicurezza della Reggia. Per una lettera scritta dai sindacati, poi c'è stato un giallo perché forse quella lettera non era scritta proprio così, bla bla bla. Insomma, lui ci sta provando. Diamogli un po' di tempo, vediamo se le cose cambiano. Ripeto, ascoltatori che siete stati di recente alla Reggia, se avete visto ancora i custodi andare in giro in ciabatte o le fontanelle dell'acqua rotte o la libreria chiusa prima troppo dell'orario, troppo presto chiamateci, perché non si può andare avanti così, no? Bisogna vedere che le cose migliorino, eh? Allora noi siamo qui per servire e per girare le vostre richieste al direttore Felicori. Adesso che succede? Andiamo in Sardegna. Arcanos libros in domo mea. Sento le parole tue. Figaso donare susambene. È la vita mia. Figaso guidare. Uguale Tazenda, se parliamo di musica. E questa è Domo Mia, Tazenda insieme a Eros Ramazzotti. Allora, il sindaco di Ollolai è uno di quei sindaci che ha aderito a questa idea: mettere in vendita le case a un euro, quindi a un prezzo simbolico, in pratica regalare le case abbandonate degli ollolaiesi, in questo caso, e per incentivare il ripopolamento. Sì, però ha una condizione, condizione che venga ristrutturato e che uno sposti la residenza lì perché quindi, sennò sembra semplicemente la casa vacanza in omaggio. Un ripopolamento vero. E noi ce l'abbiamo uno che vuol ripopolare, che la casa se l'è comprata. Vito Casula, buongiorno. Casula, buongiorno. O Casula? Casula. Lo sapevo, ho sbagliato. Vito, buongiorno, senta, come è andata questa cosa? Lei ha veramente speso un euro intanto per comprare la casa a Ollolai? Sì. Cioè avete fatto proprio il rogito con il passaggio di un euro? Sì, abbiamo fatto il contratto preliminare, però... Ah, il compromesso per il momento. Da mettere a posto alcune cose, poi si farà anche quella... Siamo curiosi perché insomma non è che capita spesso di acquistare una casa per un euro. Io se comprassi una casa per un euro sarei felicissimo. Beh, dipende. Cioè voglio dire, non è che si è pentito, Vito, si è pentito. L'ha pagata troppo? No, cioè a parte che a me è il mio lavoro e quindi mi piace anche fare queste cose qui. Cioè, allora chiariamo una cosa, perché Vito, mi scusi, lo dico io, lei il suo lavoro nel senso che lei fa l'imprenditore edile. Sì. Artigiano edile, ecco. E quindi di ristrutturazioni se ne intende, perché è un po' il suo mestiere, perché come ricordava giustamente Carlo, si compra la casa a un euro e questo è l'aspetto diciamo buono che attrae, però certo. Ci si impegna a ristrutturarla. La casa che ha preso lei è in che condizioni è? È da ristrutturare quasi totalmente. E ha fatto un piano dei costi? Cioè a spendere molto? Ma diciamo che quando si fanno questo tipo di operazioni si tende a ricreare un qualcosa che... Di originale. di che era una volta, che sì. Capito? Un restauro, cioè, conservativo. Un restauro conservativo. Sì. Un restauro conservativo con prodotti del luogo, del capito? Sì. Ma infatti, lei non è di Ollolai, giusto? No. Cioè, lei adesso diventerà residente di Ollolai, perché questo è il patto per avere la casa a un euro. Sì, sì, sì, sì. Da dove viene lei, Vito? Allora, io sto a Calazzetta, un altro paesino felice della Sardegna che sta sul mare. E che adesso avrà perso un cittadino, e quindi anche loro venderanno una casa a un euro per avere un nuovo cittadino? Beh, no, diciamo che ci alterniamo, ecco. Cioè, no, era in realtà per introdurre. No, era per introdurre l'argomento, perché in realtà la Sardegna ha un grosso problema di spopolamento e la popolazione, che già sta anche molto diminuendo, comunque si sposta tutta verso la costa. Mi sembra che si chiami effetto ciambella, questo, nel senso che dal centro tutti si spostano, come se si aggrappassero a una ciambella in mezzo al mare. Si vede proprio bene, esatto. La ciambella. Quindi in realtà è corretto, lei invece da residente sulla costa decide di diventare residente di Ollolai, che invece è all'interno. È andato un po' controcorrente. Senta, Vito, è vero che lei ha detto che vuol fare lavorare tutte maestranze, persone del posto, anche proprio per dare un contributo a Ollolai? È una delle cose che mi sono ripromesso, perché sì, comunque io come attività sto chiudendo, ecco, ho una certa età, e quindi è un po' il suo buon ritiro Ollolai, diventerà un po' il suo buon ritiro Ollolai. Quanti abitanti fa questo paesino? Allora, Ollolai fa 1300 abitanti. E quindi una dimensione proprio tranquilla. Cosa si vede? Qual è il panorama attorno alla città? Alla cittadina? Allora, guarda, se è un paese che sta a 1000 metri di quota. Ah. E facendone altri 100 si vede mezzo Sardegna. Ma è stupendo! Qui c'è una vista spettacolare. Certo, no. Ma di cosa vivono gli abitanti di Ollolai? Come si chiamano intanto? Ollolaiesi? Ollolaiesi, sì. Ollolaiesi. Di cosa vivono? Prevalentemente agricoltura, pasturizia e roba del genere. Qui insomma... Una dimensione veramente adatta per godersi anche un po' la pensione, con tranquillità, coi campi intorno, senza distrazioni, perché non credo ci siano il cinema o c'è il cinema Ollolai? No, immagino di no. No, non c'è, non c'è niente. Ollolai. C'è qualcosa Ollolai? C'è un ristorante? Penso che non ci sia, perché comunque io sono molti anni che frequento quella zona e non credo che ci siano tutte quelle... No, ma almeno un ristorante ci sarà Ollolai? Beh, sicuramente. Speriamo. Poi, ma come lei ha comprato casa, non sa nemmeno se c'è un ristorante, Vito. Non sia così giù di morale, forza. In fondo si sta costruendo il suo buon ritiro in un posto meraviglioso, immagino, speriamo. E quindi su col morale, Vito. Per carità, siamo molto entusiasti. Ecco. Va bene. Insomma, in bocca al lupo per questa nuova avventura. Il progetto è bellissimo, il progetto. Grazie, di ripopolazione, di ripopolamento, anzi, sì, di questo paese, vendendo le case a un solo euro. È un bellissimo progetto. Poi non è sempre facile, perché naturalmente... Poi è un posto stupendo, io non avevo capito che fosse così stupendo, nel senso che ti viene ancora più voglia di prendere una casa a un euro. Non lo so, Vito non era molto... Ma l'abbiamo preso nel mezzo della ristrutturazione. Mi sembra che avesse appena visto la casa. Sai quei momenti in cui il geometra ti dice: guardi, mi scusi dottor Maurizio, in realtà ci sono 70.000 euro in più da spendere per la soletta. È quel momento lì, di solito. L'abbiamo preso in quel momento lì. È disperato perché ha fatto i conti, altro che un euro. Va bene, chiaramente qualcosa bisogna spendere, però la casa arriva gratis e quindi poi con la ristrutturazione viene fuori una cifra accettabile. Assolutamente. Devo dare una comunicazione. Sì. Oggi c'è anche il sole, siamo molto contenti. A Milano alle 14.30 in Piazza Cadorna c'è la festa delle famiglie. Famiglie plurale, tutte le famiglie. La festa di tutte le famiglie è la festa promossa dalle famiglie Arcobaleno, che sono le famiglie omogenitoriali. Quindi ci vediamo tutti in piazza, anche perché è il modo migliore. 14.30 in Piazza Cadorna. Il modo migliore è riconoscersi in famiglie, vedersi, incontrare queste famiglie per rendersi conto che siamo tutti famiglie senza nessuna distinzione. Oh, però il programma non è finito, perché sembrava l'appello finale. No. Cioè, torniamo dopo il traffico, tra un attimo. Assolutamente. si può fare. Cronache da un paese migliore. If you've ever been afraid of anything, this song's for you. I know you're feeling me. If you ever want to do just something big, but then you stopped. Make a Wish Italia è una organizzazione no profit che realizza i desideri di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni che sono colpiti da malattie che mettono a rischio la loro sopravvivenza. Il World Wish Day, che si è celebrato ieri, un evento internazionale che si tiene in tutto il mondo per celebrare i desideri dei bambini colpiti da malattie. Un evento che si è svolto ieri ma che ha una possibilità anche oggi di intervenire, di partecipare, di essere parte di questo Make a Wish. Ne parliamo con Sun Frontani, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. General Manager di Make a Wish Italia. Cosa è successo ieri ma soprattutto cosa si può fare oggi per dare una mano, per partecipare, essere parte di questo bellissimo progetto? Allora, ieri abbiamo iniziato a celebrare questa giornata che è praticamente la giornata che celebra il 36esimo anniversario del primo desiderio realizzato dalla nostra organizzazione internazionale nel lontano 1980 e si ispira al desiderio realizzato del piccolo Chris. Che è una storia bellissima. Sì, che era ricoverato in ospedale a Phoenix in Arizona e ha avuto questo sogno che ha confessato a sua mamma di poter uscire per un giorno ed essere un vero poliziotto. A questo desiderio si è ispirato Make a Wish e da lì è nata l'organizzazione che oggi è molto molto grande. Ci sono, come in Italia, ci sono 37 affiliate in tutto il mondo che tutti insieme celebrano tutti gli anni il 29 aprile questa giornata, che soprattutto vuole cogliere l'opportunità di ringraziare a tutte le persone che abbiamo incontrato sulla nostra strada, persone meravigliose che hanno con noi condivisi momenti indimenticabili come quella della realizzazione dei desideri dei nostri bambini. Ma ci racconti qua, sì, alcuni di questi desideri che poi sono il cuore. Io lo trovo un progetto straordinario, perché è proprio un bambino che dice, o una bambina che dice, sì, il mio sogno è questo, e voi muovete tutto il mondo, sì, per far sì che questo sogno si realizzi. Sì, lo facciamo perché vogliamo farli credere che tutto possa essere possibile, vogliamo dare a loro nuove energie e soprattutto la speranza di potercela fare. Io, certo, sono qua seduto nella sede di Make a Wish a Genova, ho davanti a me tante foto di tanti desideri e li vedo qua. Abbiamo, c'è Giuseppe che è andato alla NASA per vedere la partenza di un shuttle in prima linea. Bellissimo. C'è Gianluca che ha voluto essere pilota per un giorno, c'è Anastasia che ha voluto allenarsi con la campionessa Vanessa Ferrari. Ma questi sono tutti realizzati o i sogni che state cercando di realizzare? No, sono stati realizzati. Ah, tutti già realizzati. Noi in Italia abbiamo realizzati dal 2004 più di 1300 desideri. L'anno scorso da solo 200, sono veramente tanti, perché lasciando fuori le vacanze di Natale sono praticamente ogni giorno un desiderio realizzato. E noi siamo molto contenti, questo è un lavoro bellissimo che non sarebbe però possibile senza persone e volontari che credono in noi, come in questo caso nella celebrazione del World Wish Day, che abbiamo al nostro fianco due partner importantissimi, uno è Fly Zone Italy, che ha realizzato un video meraviglioso con i loro campioni di punta, atleti dello sport d'azione, che hanno realizzato questo video per portare speranza e per chiamare i donatori a fare una donazione per, certo, Italia. Ma ci invece sono oggi, prego, oggi, prego. Sì, oggi c'è una cosa bellissima, abbiamo City Sightseeing al nostro fianco, sapete, ecco, tutti, questa è la cosa che si può fare oggi, importante, diciamolo chiaramente, perché si può partecipare, una parte del ricavato andrà proprio in... Sì, City Sightseeing devolverà in 11 città italiane un euro al biglietto, i loro autobus rossi si colorano di blu, ci saranno i nostri volontari. E ci sono anche bambini, in tutte le città, bambini Make a Wish che realizzeranno il loro desiderio proprio contemporaneamente. Quindi oggi farsi un giro sugli autobus rossi che ti fanno vedere la città ha un valore in più, perché si aiuta Make a Wish a dare una mano a questi bambini. È una bellissima possibilità. Grazie, veramente bella. Oggi fatelo, mi raccomando. Grazie a Sune Frontani per essere stata con noi. In bocca al lupo per tutto i prossimi che desideri. Esatto. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Allora, facciamocelo un giro sugli autobus rossi del sightseeing. Così diamo una mano a Make a Wish. Io lo faccio oggi, tanto sono lì già in Cadorna per la festa delle famiglie, quindi a un certo punto per tornare prenderò... a casa, esatto, invece di prendere la solita metropolitana. Anche perché poi ci si sposta in Piazza del Cannone alle 3 e lì ci saranno tutti i bambini, ci sono un sacco di cose per far giocare i bambini poi, allora, sostanzialmente. Dovremmo ancora parlare delle case a un euro, perché gli ascoltatori dicono, ma poi l'Agenzia delle Entrate cosa avrà da dire su queste case? Ma niente, perché è ufficiale. Quello è il prezzo, pagheranno le tasse sulla base della rendita catastale, come si fa normalmente, ascoltatori, perché dovete pensare sempre male? Ma è un pensiero giusto, perché uno dice, ma poi... Allora, ma le pagano le tasse, quelle che devono pagare, quelle giuste. Ma quello certo che le pagano. Ah, tu dici che era un personaggio che diceva, qua non si pagano le tasse. Hai ragione tu. Comunque approfondiremo. Grazie a tutti, grazie ad Andrea Piana, autore insieme a noi del programma, grazie a Claudia Schiattone, autrice, redattrice anche lei, grazie a Filippo Oreggi che oggi era in regia, noi ci sentiamo domani alle 8:30 con Si Può Fare, ciao da Alessio Maurizio. E da Carlo Gabardini. E a chi ci ascolta in podcast.